Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Wombat. Siamo qui lunedì 5 marzo 2018, dopo la tornata elettorale. Cioè, siamo stati svegli tutta la notte per seguire le elezioni in diretta per voi, quindi perdonate se faremo qualche strafalcione, ma a stento riusciamo a tenere gli occhi aperti. Intanto oggi vi ricordiamo che da questo fine settimana Radio Wombat si può ascoltare anche su onde medie alla frequenza 1359, oltre che in streaming, quindi lo potrete ascoltare in macchina o dalle vecchie radioline come quella di mio nonno. Beh, iniziamo subito direi a commentare questo risultato delle urne che ci ha lasciato questo fine settimana, e proveremo un po' insieme a capire anche, cioè, come questo risultato elettorale sposta un po' gli equilibri anche all'interno del mondo dei movimenti sociali. Proveremo a seguire un po' i giornali mainstream, anche se i giornalisti sono diventati sempre più sfaticati e infatti sono andati in stampa molto prima che uscissero i dati ufficiali e riportano ancora tutti gli exit poll. Comunque exit poll da cui già si riusciva un attimo a capire bene quale sarebbe stato l'andazzo di questa tornata elettorale, anche se forse l'unica cosa che non è, su cui non hanno preso tanto, è la percentuale che avrebbe poi preso Salvini su l'alleato Berlusconi, che è stata una percentuale molto schiacciante, e penso che questo cambierà in maniera netta le possibili, mi viene la parola, i possibili outcome di governo. Esatto. Quindi i giornali italiani sono molto drastici, cioè danno proprio, molti aprono dicendo: ah, tramonta la seconda repubblica, c'è il buio oltre le urne. Ovviamente stiamo parlando di giornali come Il Corriere o La Repubblica, molto legati a comunque ai partiti di establishment, che quindi avrebbero magari trovato preferibile una vittoria dei partiti più tradizionali, quelli appunto legati alla Seconda Repubblica, cioè al ventennio berlusconiano, quali sono appunto Forza Italia e il PD, mentre di ben altro avviso è Il Fatto Quotidiano, come sappiamo giornale che più volte ha dimostrato simpatie verso i partiti anti-establishment, in particolar modo i 5 Stelle, che apre in maniera molto più trionfale con scritto cambia tutto. Non so se possiamo anche noi provare a commentare un po' a caldo queste elezioni. Sicuramente se volessimo fare una classifica di chi ha vinto e chi ha perso, i vincitori sono chiaramente il Movimento 5 Stelle e la Lega. Movimento 5 Stelle che arriva a sfiorare percentuali alte per le percentuali a cui siamo abituati in Italia dalla fine del bipolarismo. Arriva infatti a un 33% molto rispettabile, che la pone come il primo partito del paese. E questo fa abbandonare anche a molti, come già si era visto tra l'altro in campagna elettorale, a molti dei suoi rappresentanti quel vestito anti-establishment che gli aveva un po' caratterizzati finora, e stanno già iniziando dalle prime dichiarazioni a porsi come partito di governo. Cioè, infatti le prime dichiarazioni di Di Maio ieri sera pongono il Movimento 5 Stelle come il pilastro della nuova legislatura, quindi comunque non, non una chiusura netta a possibili accordi di governo. Esatto, sì, da tutti i giornali che abbiamo visto, che si può trovare oggi, appunto il 5 Stelle si pone come unico partito garante di una qualunque maggioranza in questo momento, e una cosa evidente, è il segno appunto di un cambiamento dei tempi, è che la vecchia alleanza che ha governato negli ultimi anni, PD Forza Italia, non riesce quasi neanche a superare i voti del 5 Stelle, per cui appunto è sicuramente a livello di governo non sarà riproducibile quello che abbiamo visto negli ultimi anni, e comunque ha attirato la politica italiana nell'ultimo ventennio, praticamente anche di più. Ora bisognerà anche vedere se con l'attribuzione definitiva dei seggi i 5 Stelle avranno anche i numeri per fare quello che si poteva paventare prima delle elezioni, ovvero un governo insieme alla Lega. Perché infatti c'è, comunque da quelle percentuali lì bisogna levare tutta la percentuale dei partiti che non hanno superato lo sbarramento, quindi è probabile che ce la facciano anche ad avere la maggioranza da soli, anche se magari non una maggioranza proprio netta e schiacciante. Sì, per quanto rimanga incerto tutto il discorso sul maggioritario, appunto, quindi seggi assegnati dai singoli collegi, che questa è una cosa che appunto era stata vista già annunciata settimane prima del voto, che appunto moltissimi dei seggi del maggioritario sarebbero stati assegnati alle coalizioni di centrodestra e di centrosinistra, perché appunto, a parte al sud, il 5 Stelle nelle singole circoscrizioni difficilmente otteneva la maggioranza, per cui ancora non c'è l'assegnazione definitiva dei seggi, e staremo a vedere, perché comunque la coalizione più forte rimane comunque il centrodestra, che appunto raggiunge, sfiora il 40%, in realtà supera il 36-37% dei voti, e per cui insomma questo è tutto da vedere. La grande incognita, come del resto delle ultime elezioni, è ma chi governerà davvero il paese. Comunque io ho la sensazione netta è che comunque ci vorrà ancora almeno una settimana, anche solo per avere un attimo un'idea, perché ora giustamente inizieranno tutti i ballettini, i valzer, le aperture, le chiusure, le esplorazioni. Bisogna anche vedere, cioè, il Presidente della Repubblica cosa deciderà di fare, cioè se affidare l'incarico a il primo partito, quindi il Movimento 5 Stelle, o se affidarlo al candidato premier della coalizione che ha preso più voti, ovvero il centrodestra. In ogni caso, cioè, sarebbe o Salvini o Di Maio. Cioè, quello che sicuramente possiamo dire è che da questa tornata elettorale escono praticamente cancellati i partiti che hanno governato l'Italia fino ad oggi, quindi il PD o Forza Italia. Siamo spiacenti di deludere chi aspettava gloria o il ritorno del vecchio Berlusconi. Anche noi un pochino ci speravamo, ricordando le tante gioie che ci aveva dato negli anni passati, a livello di soprattutto di piazze, di contestazione. Sicuramente meno dispiaciuti siamo del fatto che il buffone di Rignano abbia preso un'altra scoppola elettorale, come d'altronde prende da 4-5 anni a questa parte. Esatto, da buoni toscani ci auguravamo una sconfitta del PD. Lui sicuramente non riesce a starci simpatico. E niente, quindi okay, io sicuramente leggervi vincitori, sicuramente sconfitti. E passiamo un attimo ai giornali. Sì, se di solito peschiamo molto dai giornali di movimento, oggi appunto, dato che si parla di questioni tutte istituzionali, perché poi appunto non si crede che le elezioni cambieranno realmente determinate cose della nostra quotidianità. Certo, sono molto pesanti all'interno dello scenario politico italiano e danno sicuramente un quadro di cosa pensa la maggioranza degli italiani che va a votare. Quindi andiamo adesso con uno speciale di Repubblica, Repubblica Online, che appunto va a guardare quali sono, potrebbero essere le possibili coalizioni di questa nuova legislatura. Il rebus del governo. Ecco i numeri delle possibili coalizioni del futuro. Nessuna delle forze politiche in campo ha raggiunto la soglia della maggioranza assoluta, ma ci sono varie alleanze, almeno numeriche, in grado di dare vita a un esecutivo. Prima seduta delle nuove Camere il 23 marzo. Il governo non c'è, la previsione almeno su questa è stata rispettata. Nessuna delle tre principali forze politiche si avvicina a quella soglia del 40% da tanti considerata garanzia di una maggioranza assoluta, in termini di seggi alle Camere. E allora? Certo, sarà decisiva l'opera di mediazione del Quirinale, ma i numeri? Quali sono? Negli scenari della fantapolitica, le possibili coalizioni in grado di sostenere un governo nella prossima legislatura. Ok, la domanda è quali sono le possibili coalizioni in grado di sostenere un governo nella prossima legislatura. Vediamo al Senato. Partiamo dal Senato, dove il numero magico per la maggioranza assoluta è 158. Basiamoci sul numero di seggi attribuibili sulla base delle proiezioni. Assolutamente impossibile un'alleanza PD-Forza Italia. 48 seggi del PD, 51 quelli di Forza Italia. La somma fa 99. In teoria, invece, i numeri di un patto tra i nemici giurati, Movimento 5 Stelle e PD, ci sarebbero. Magari con liberi uguali a fare da collante. 48 seggi del PD, 112 quelli del Movimento 5 Stelle, 8 quelli di liberi uguali. La somma fa 168. Maggioranza, anche se non ampia. Certo, per l'attuale segretario del PD, che ha trascorso le ultime giornate di campagna elettorale ad attaccare Di Maio dicendo non avrete i nostri voti, sarebbe difficile da accettare, ma un eventuale PD derenzizzato, forse sì. Mentre un'alleanza Movimento 5 Stelle Liberi Uguali senza PD sarebbe lontana dal cuore. Ultima opzione, il governo nero-verde dei populisti. Stando ai dati disponibili in questo momento, la Lega avrebbe 57 seggi, Fratelli Italia 16, sommati a 112 dei grillini, il risultato è 185. Alla Camera. Qui la maggioranza assoluta è a quota 316. Ripartiamo dall'ipotetica alleanza Forza Italia-PD. Niente da fare. Il risultato fa 229. Assolutamente lontano dalla soglia. E l'ipotetica coalizione 5 Stelle-Sinistra? I pentastellati sono a quota 226, sommati ai 135 il PD e 16 di liberi uguali, il risultato è 377. E il numero di seggi dell'alleanza dei populisti? 123 leghisti sommati ai 28 di Fratelli d'Italia e 226 dei pentastellati danno 377. Quindi entrambe le alleanze potrebbero appunto governare avere una maggioranza, insomma, nel Parlamento. L'aritmetica dice che un governo è possibile, ma le strade della politica sono più impervie. Ovviamente resta la soluzione con la base più ampia, un governo in unità nazionale o un governo di scopo, magari per fare la legge elettorale, con tutti o quasi dentro. Ma neanche questa sembra una strada in discesa. I passi della nuova legislatura. La prima seduta delle nuove Camere sarà il 23 marzo. Il primo giorno di scuola prevede, come sempre, l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Due giorni dopo, il 25 marzo, è il termine ultimo per i parlamentari per comunicare il gruppo di appartenenza. È alla fine del mese che si entra davvero nel vivo per la formazione di un eventuale e al momento inesistente nuovo governo, perché tra più di tre settimane sono previste le consultazioni al Quirinale, il classico appuntamento di galateo istituzionale, con cui il Presidente della Repubblica dà il via all'iter per la nascita del nuovo esecutivo. Bene, come vediamo appunto lo scenario è un po' dei soliti in un certo senso, e si paventa pure l'ipotesi di fare un governo di scopo per fare la legge elettorale, che parte lo scopo degli ultimi governi. Sì, è anche possibile, ma che magari il Movimento 5 Stelle, forte di questa maggioranza, punti sul fare una legge elettorale fortemente maggioritaria che premi il partito con più voti, per magari provare a ottenere i voti per governare da solo il paese. Sì, prima o poi faranno anche magari una lista unica che approvi stile ventennio fascista, lo sappiamo bene. Okay. Vabbè, comunque, mettiamo un po' di musica. Sì. Dai. Andiamo con i Rage Against the Machine. We'll be right back.

Ieri gli italiani, eroicamente in fila al freddo, anche per ore, nel tentativo di votare con la legge elettorale più demenziale del mondo, hanno urlato un gigantesco supersonico vaffa all'ancien regime, che per mesi aveva tentato di convincerli a restarsene a casa. Tanto non sarebbe cambiato nulla e ci saremmo ritrovati il solito governo Gentiloni. Invece a votare gli elettori ci sono andati a come, a dispetto di tutto e di tutti, come già il referendum costituzionale. Hanno ignorato la propaganda terroristica dei mercati, che ancora una volta volevano insegnarci come si vota e soprattutto per chi, i soliti. Hanno smascherato i doppiopesismi di chi per 3 mesi è andato a cercare le pagliuzze nell'occhio dei populisti e intanto copriva le vergogne degli altri al punto da riabilitare un vecchio arnese come Berlusconi. E hanno affondato, si spera, definitivamente, questo sistema marcio dalle fondamenta. Ma al contempo hanno preso in mano la bandiera della Costituzione, della democrazia e della sovranità popolare, da tempo ammainata da un establishment geneticamente golpista, e hanno scompaginato i giochetti che il sistema, con i suoi mandanti internazionali e i suoi media a rimorchio, credeva di aver già concluso, nelle sue segrete stanze, all'insaputa degli elettori. I numeri sono ancora scritti sull'acqua, non sono le percentuali ancora affidate a proiezioni molto parziali, ma anche e soprattutto la traduzione in seggi. Ma la tendenza che pare emergere è chiara. Il vaffa si esprime nel boom dei 5 Stelle un po' in tutta Italia, ma soprattutto al centro-sud, e nell'ascesa della Lega, che a fianco addirittura sorpassa il bollito sicuro Berlusconi, soprattutto al nord. Ma il vero cadavere politico uscito dalle urne funerarie è quello di Renzi, che, nel breve volgere di 4 anni scarsi, è riuscito a trascinare il centro-sinistra dal suo massimo storico, il 40,8% delle europee del 2014, al suo minimo storico, molto prossima all'irrilevanza. Al posto suo, qualunque leader di qualsiasi paese del mondo si dimetterebbe all'istante per ritirarsi a vita privata, come peraltro si era già impegnato a fare dopo la penultima debacle, quella del 4 dicembre 2016, e di sequestrare il suo partito, tenuto finora in ostaggio da una cricca di poltronisti metà incapaci e metà impresentabili. Stavolta però il vaffa, diversamente dal 2013, non è più un voto di protesta, è un voto di governo. Chi vota Di Maio e la sua squadra di professori e tecnici in doppio petto, che ha regalato al movimento un clamoroso recupero sul filo di lana, vota un programma certamente esagerato rispetto ai vincoli dei bilanci pubblici e dunque delle cose possibili, ma di forte rottura rispetto ai 4 governi senza maggioranza che ci hanno ammorbato dal 2011 a oggi, facendo pagare i costi della crisi a chi non ha nulla o ha poco, per salvare i pochi che hanno molto. E lo stesso messaggio, appesantito e intorbidato dalle paure che le guerre da poveri trasformano in xenofobia, arriva dal vaffa che premia Salvini e la Meloni, cioè quella destra protettiva e antiliberista che Bersani, inascoltato, chiamava la mucca nel corridoio, ma non è riuscito a contrastare né dentro il PD né fuori, con la sinistra menata di liberi uguali, troppo uguali al passato, grazie anche alla clamorosa inefficacia mediatica di Pietro Grasso. Nessuno pensa che 5 Stelle o la Lega abbiano in tasca ricette miracolose. Chi li vota lo fa per dire basta a chi c'era prima. La voglia di cambiare, a lungo repressa sotto il coperchio della pentola a pressione, è esplosa tutta insieme e ha tradotto il regime miope e arrogante che pensava di esorcizzare i rappresentanti delle loro periferie sociali in rivolta, continuando a ignorarli insieme ai loro milioni di elettori, a mostrificarli come baluba incolti e pericolosi, ad additarli come causa di tutti i mali, e a escogitare ammucchiate sempre più improbabili per tenere fuori dall'area di governo, nella speranza che si estinguessero da soli. Se questi dati ancora provvisori fossero confermati, potremmo già salutare alcune patacche che hanno infestato la campagna elettorale. La pompatissima rimonta di B era un bluff, che l'ex Caimano fosse bollito non lo diceva nessuno, ma lo vedevano tutti. Il ritorno del governo Gentiloni, visti i numeretti del suo partito, sarebbe possibile solo con i carri armati o col ritorno di Napolitano al Quirinale. Larghe intese PD e FI, con centrini e bonini vari, non arrivano al 50% dei seggi nemmeno se comprano qualche leghista e qualche fuoriuscito pentastellato. L'invincibile armata di centrodestra e il suo conducator, atterrato da Bruxelles a Fiuggi, Antonio Tajani, è ben lontano dall'obiettivo del 40%. La finta sinistra di Emma Bonino, che un tempo si faceva eleggere con il partito di Dell'Utri e faceva gruppi in Europa con Jean-Marie Le Pen. Il quadro che sembra emergere è piuttosto chiaro. I 5 Stelle sono oggi quello che fu la DC nella Prima Repubblica, poi Forza Italia nei primi anni 2000 e infine il PD nell'ultimo quinquennio. Il partito capotavola che dà le carte. Hanno da soli la somma dei voti del PD e di Forza Italia, il che significa che nessuna maggioranza di governo è possibile senza di loro. e questo li carica di una responsabilità forse eccessiva per le gracilissime gambe di quello che ancora appare come un gigante dai piedi d'argilla. Si spera che, smaltita la sboria dei festeggiamenti, i pentastellati si calino subito nella nuova parte che gli elettori hanno loro affidato, cioè che evitano di crogiolarsi nel mare di voti che hanno preso, rinuncino alla tentazione di pretendere da Mattarella l'incarico per fare un improbabile governo con chi ci sta, cioè al buio, e cominciano a lavorare per rendere possibile un governo alla luce del sole, con chi sentono più vicino alle loro sensibilità e a quelle dei loro elettori, ma soprattutto ai bisogni dell'Italia. La soluzione più facile è un governo dei due vincitori, Di Maio e Salvini, ma sarebbe anche un suicidio. Il grosso del gruppo parlamentare pentastellato viene dal centro-sud, difficilmente compatibile con le sfasce carrozze nordisti. La soluzione più difficile, ma anche più auspicabile, è un governo 5 Stelle centro-sinistra, con la parte anti-renziana del PD e Liberi Uguali, la stessa area culturale da cui provengono tutti gli aspiranti ministri annunciati da Di Maio. Si dirà, ma il PD è il PDR, è il partito di Renzi. Siamo sicuri che dopo la scoppola di ieri lo sia ancora? Di Maio ha in tasca una carta formidabile, se sa giocarsela bene. Senza di lui non si fanno governi. Mattarella tutto vuole, fuorché tornare alle urne con la stessa legge elettorale. Un Parlamento, che appena ha raffato una poltrona, tutto desidera, fuorché rimetterla in discussione con il rischio di perderla al prossimo giro. Se si torna subito a votare per il no di tutti i partiti a Di Maio, i 5 Stelle la prossima volta potrebbero arrivare al 40%. Forse nel PD gli Orlando, i Cuperlo, le Zingaretti e magari anche Letta e Prodi potrebbero comprendere la convenienza di ciò che Emiliano e Bersani propongono da tempi non sospetti. Rottamare il sedicente rottamatore e lavorare al nuovo centrosinistra insieme a Leo sulle macerie lasciate da Renzi, e intanto dare il via libera a un governo di scopo e di cambiamento su pochi punti. Legge elettorale, riforme sociali, la reddito di cittadinanza per chi cerca lavoro alle maggiori tutele per chi lavora alla riforma della Fornero per chi va in pensione. Lotta all'evasione e alla corruzione, opere pubbliche utili ad alta occupazione al posto di quelle inutili, costose e a bassa occupazione. Cioè l'esatto contrario di quel che si disse negli ultimi 25 anni, che poi è ciò che chiede la stragrande maggioranza degli elettori, di tutti i colori. Quindi un travaglio che affronta la cosa in maniera, come è suo stile, anche molto non di schieramento, quindi non fa molti discorsi su destra e sinistra, ma sembra caldeggiare per i 5 Stelle un ruolo come quello che è stato della DC negli anni della Prima Repubblica, cioè il partito garante della stabilità di sistema, però che comunque deve fare accordi per governare. Perché se ci ricordiamo, comunque la DC nella Prima Repubblica non ha mai avuto i numeri per governare da sola. Si è sempre dovuto appoggiare su comunque partitini esterni o alla destra o alla sinistra. In questo caso Di Maio sembra caldeggiare la seconda ipotesi, cioè di appoggiarsi a una parte della sinistra, cioè una cosa che saprebbe quasi un nuovo compromesso storico. Sì, probabilmente sarebbe anche l'ipotesi più auspicabile dalla governance europea, perché io penso, cioè, che lì alla BCE un governo guidato da Salvini o Di Maio, comunque con questo tipo di coalizione, forse non sarebbe, ecco, così gradito e soprattutto così garante di stabilità, ecco, perché comunque l'abbiamo visto negli ultimi anni, è che l'Europa e l'economia che gravita intorno all'Europa la fa da padrona sulla politica istituzionale. Il centro-sinistra sta cosa ci potrebbe anche benissimo stare, perché come si è visto non è gente che dà molto peso alle dichiarazioni di intenti, cioè hanno più volte ribadito negli ultimi anni non ci alleremo mai con Berlusconi, salvo poi allearsi con Berlusconi, quindi probabilmente anche tutta questa diffidenza, tutti questi proclami di alternatività che ci sono rispetto ai 5 Stelle sicuramente verrebbero sacrificati, come viene sempre fatto, sull'altare della necessità di formare un governo stabile. Ora volevi dire qualcosa? No, io volevo portarvi su un po' di dati, ma ci possiamo andare dopo. No, andiamo sui dati, perché no. Anch'io volevo commentare effettivamente questa distribuzione dei voti. Esatto, io sto pescando adesso dal Corriere.it, che dopo andiamo a vedere nello specifico i numeri di voti che hanno preso i vari partiti, ma qui appunto fa vedere una cartina, cioè una cartina con l'Italia e con tutte le varie circoscrizioni rispetto al maggioritario che riguarda la Camera. E vediamo, provo a descrivervela un po', ecco, che il nord è tendenzialmente blu, quindi assegnato al centro-destra, fatta eccezione per la Val d'Aosta, che è una circoscrizione unica, che è assegnata al 5 Stelle, e il Sud Tirol, che è assegnato al centro-sinistra, più poche zone incerte, c'è una circoscrizione di Torino dove ha vinto il centro-sinistra, ma tendenzialmente ha vinto il centro-destra. Poi scendendo vediamo che nelle storiche regioni rosse, quindi in particolare nell'Emilia, nell'Umbria e nella Toscana, c'è sì questa macchia rossa, però esatto, non è del tutto rossa, ecco. Vediamo che sia parte dell'Emilia che parte della Toscana sono state assegnate al centro-destra. Insomma, Emilia mica tanto, c'è solo Bologna rossa praticamente. No, abbiamo sì, Bologna, Imola, sì, quella però già Forlì, Romagna e Ravenna. Sì, intendevo Emilia-Romagna, scusate, sono un poco chiaro rispetto a ste cose. Mentre Scandiano, che è un posto che io non conosco, è assegnato al 5 Stelle. In Toscana invece appunto vediamo che Arezzo è assegnato al centro-destra, come Prato, come Pistoia, Lucca, Pisa e Massa. Sì, che è un dato abbastanza in tendenza per quello che stiamo vedendo. Infatti cioè, a Pistoia, se ricordiamo, c'è un sindaco di destra eletto recentemente. A Prato comunque sta governando il PD e sta governando molto male, infatti per le elezioni del prossimo anno la destra viene data come favorita. Forse sorprende un po' il dato di Pisa. Sì, Pisa probabilmente è un dato in controtendenza rispetto alla storia appunto elettorale in Toscana, anche se ricordiamo che alle regionali di due anni fa probabilmente la coalizione di centrodestra che era di destra, anzi Fratelli Italia più Lega prese a livello regionale, ah no scusate erano le europee, mi correggo, però a livello regionale io mi ricordo andai a vedere questa cosa, presero Fratelli Italia più Lega, presero il 16% in Toscana, che non è poco, dico il 13% alla Lega, per cui ecco questi voti da qualche parte arrivano, chiaro, sì. Pistoia e Lucca sappiamo tutti che tendono da una parte, però ecco c'è qualcosa di nuovo. Poi in provincia di Pisa ricordiamo che c'è anche il famoso primo sindaco leghista della storia della Toscana, esatto, a Cascina, esatto, quindi magari c'è un hinterland che risponde in maniera diversa dalle esatto, città sulla un'altra costa. Un'altra cosa da andare ad analizzare probabilmente è Livorno, che al seggio è assegnato al centro-sinistra, Livorno governata amministrativamente dal 5 Stelle, ma appunto vediamo probabilmente i livornesi sono già rotti le scatole anche del loro sindaco. Scendendo verso il centro, il sud Italia, abbiamo un tendenzialmente è molto giallo, quindi 5 Stelle, il sud Italia, però appunto il Lazio è tutto nell'incertezza ancora, per cui ecco il Lazio come Grosseto, dalla Maremma in giù fino ad arrivare quasi in Campania, molti seggi sono ancora incerti, per cui ecco c'è sostanzialmente una quasi parità di voti che andrà a determinare appunto molti seggi. Abbiamo sulla costa adriatica da Pesaro andando verso sud abbiamo solo 5 Stelle e tutto il sud Italia e le isole 5 Stelle, quasi tutti i seggi già assegnati o con vantaggi molto forti, fatta eccezione di Gioia Tauro assegnata al centro-destra, già al seggio, quindi c'è una maggioranza molto netta. Sì, anche se per quanto riguarda il Lazio è vero che rimane ancora da assegnare, però è anche vero che in Lazio si sono tenute pure le elezioni regionali, dove Zingaretti, esatto, candidato del Movimento 5 Stelle, no, non vorrei dire uno sfondone ora, controlliamo subito. Andiamo a controllare prima, dove sono le regionali. Prima di dire uno sfondone. Comunque Zingaretti, candidato per, mi sembra, il Movimento 5 Stelle, ha preso una percentuale più alta degli altri candidati. Allora, per cui Lazio, anche il Lazio indicativamente dovrebbe finire assegnato ai 5 Stelle. Nicola Zingaretti? Ah no, ho detto una cavolata, Nicola Zingaretti è sostenuto mentre Lombardia ha vinto il centrodestra. Comunque, dati quasi certi ormai. Sicuramente la cosa che salta più all'occhio, almeno al nostro occhio, è questa Emilia Romagna blu, cioè forse non si era mai visto un'Emilia Romagna blu. Soprattutto con tutte le città storiche della Via Emilia come Piacenza, Modena, Parma, Reggio Emilia, che comunque vantavano una grande tradizione di centro-sinistra, al punto che gran parte, comunque un forte nucleo della classe dirigente del PD veniva da quelle regioni, che è passata quasi totalmente al centro-destra. Quindi questo indica veramente una sinistra allo sbando, che non solo perde voti ovunque, ma scricchiola anche nelle sue roccaforti. Esatto, ma infatti quello c'è da dire è che appunto complessivamente il centro-sinistra ha raccolto 18,8 col PD e il 3,3 con Liberi Uguali, più se vogliamo metterci gli alleati del PD tipo la Bonino eccetera, comunque appunto non raggiunge il 25% dei voti, ecco, questa è una cosa molto indicativa di un grosso cambiamento storico che è sotto gli occhi di tutti, indubbiamente. E invece questo sud giallo come possiamo commentarlo? Cioè, sicuramente la chiave più facile è quello di analizzare il voto in chiave antisistema, cioè il sud che è l'eterno arretrato, il sud che vota sempre contro il governo perché il governo continua a dimenticarsi che esiste effettivamente un sud Italia. Vediamo cosa succede se il sud va a governo, dato che potrebbe succedere questa cosa. Sicuramente sarebbe una inversione di tendenza molto interessante. Io volevo continuare un attimo con i dati per leggere molto velocemente, vi stresserò poco, lo prometto, il numero di voti che sono stati presi, perché secondo me insomma fa sempre un po' stomaco sentire queste cose. Non sono ancora ultimati del tutto gli scrutini, ma ecco, sono insomma a buon punto, oltre il 90%. E allora abbiamo per la Camera, vi leggo solo quelli della Camera per fare prima, il centrodestra ha preso complessivamente 11.700.000 voti, equivalente al 36,98%, quindi quasi il 37% dei votanti, di cui la Lega 5.400.000, Forza Italia 4.300.000 e Fratelli d'Italia oltre 1.000.000 di voti. Quindi volendo li potremmo prendere e buttare tutti a Roma e rinchiuderli lì. Sì, ci stanno tutti a Roma. No? Sì, forse. Mentre il 5 Stelle, Roma e Milano facciamo, ci stanno quasi sicuro a quel punto, un po' pigiati. Mentre il 5 Stelle ha superato i 10 milioni di preferenze, appunto superando il 32% dei voti, il centro-sinistra complessivamente ha preso 7 milioni e 200 mila voti, di cui il Partito Democratico non raggiunge 6 milioni di voti. Per appunto Partito Democratico 18,8 di percentuale e il centro-sinistra complessivamente 23%. Ecco, questo è un deciso calo, perché se non sbaglio il PD da solo ha superato i 10 milioni di voti solo qualche anno fa, e appunto si è visto un elettorato dimezzato. Liberi Uguali invece ha superato di poco 1 milione di voti, facendo 3-4%, segue Potere al Popolo, di cui magari poi andiamo a parlarne più nello specifico, che ha ottenuto 360.000 preferenze, superando l'1% di poco, 1,13%, segue quindi Casa Pound, con quasi 300.000 preferenze, 298.000 per la precisione, che sfiora l'1%, e poi tutta una serie di partitini, forse ci interessa meno, Forza Nuova e Fiamma Tricolore invece hanno fatto il 100.000 preferenze circa, rimanendo comunque ben al di sotto dello 0,5%. Niente, questi erano dati un po' al volo. Io sarei curioso in realtà, e vi giuro che magari riesco a darveli fra un po', di trovare il numero di voti nulli, perché una cosa molto particolare di questa elezione è che ieri pomeriggio i giornali online titolavano tutti di quanto sia difficile votare, quanto c'è stata confusione, votazioni sospese, qualcuno è dovuto tornare a rivotare, qualcuno non capiva cosa succedeva, per questo nuovo sistema appunto antifrode della tessera numerata e poi ti viene staccata dal presidente di collegio, ecco. Sì, io appena trovo i dati, prometto che ve li do, perché potrebbe essere interessante vedere quanta gente voleva votare ma non c'è riuscita. Io confermo, non so quanti di voi siano andati per votare, io mi trovavo a un seggio purtroppo per lavoro e vi posso assicurare che in alcuni seggi la coda arrivava addirittura alle 30-40 persone, il che voleva dire anche due ore di attesa con persone che hanno finito di votare veramente a tarda notte. Mandiamo un po' di musica e poi magari commentiamo un po' nel dettaglio le percentuali dei partiti minori di cui i giornali parlano meno, ma non comunque interessano. An unidentified man is being held for questioning by the FBI for suspected links to last month's biological virus deaths. In local news, a dog named Hero takes the grand prize at the annual. I wish I could tell you more pertinent news, but we're in a rating system here, and the key factor is sensationalism. They've got you running in circles, 9 to 5, then 5 to 9. You're mine. I tell you what they want you to know, and you consider it the truth. Nobody is opening their eyes. Our global economy is depleting the world of our lives and natural resources. And are you happy? Come on! I work for the system. Good evening. I'm Erica Lost. NATO forces bomb Serbia and Kosovo. An unidentified man is being held for questioning by the FBI for suspected links to last month's biological. Bentornati, e Commentiamo magari brevemente le percentuali che hanno preso alcuni partiti che magari non influiranno mai troppo sulla vita del Parlamento, ma che influenzano la nostra vita di militanti politici. E un dato che sicuramente ci interessa, e magari interessa anche qualcuno che ascolta la nostra radio, è il dato di potere al popolo. Infatti, come sapete, se ci avete ascoltato, noi siamo molto critici con l'esperienza di potere al popolo, però riconosciamo anche che se proprio qualcuno legato al nostro mondo poteva avere interesse ad andare a votare, quello fosse l'unico voto che poteva avere un senso. Potere al popolo che ha preso, non ha coronato il suo sogno, non è riuscito ad arrivare al 3%, non è riuscito ad entrare in Parlamento. E non so se era una cosa aspettata o forse inaspettata. Io sinceramente mi aspettavo che ce la facesse, però forse è anche vero che la mia percezione è un po' influenzata dal fatto che vivo in una città dove potere al popolo è molto attivo, è molto forte. Infatti sarebbe interessante anche vedere il numero di voti effettivi che ha preso nella nostra circoscrizione, mentre magari in altre città più provinciali, dove le lotte sono meno forti, non è così radicato questo nuovo cartello elettorale. Non so, cioè, secondo te si può parlare di una sconfitta per potere al popolo? È comunque un buon dato di partenza da cui iniziare? Diciamo, guardando quantomeno tutto il mondo social per cui, cioè, con cui hanno fatto gran parte della loro campagna elettorale, ecco, fino a ci avevano quasi convinti tutti fino a ieri sarebbero entrati in Parlamento, per cui apparentemente può essere anche una sconfitta. Poi come se la ragioneranno ce l'andremo a vedere, insomma, da domani, da quello che uscirà già oggi. Io ho trovato i dati per la circoscrizione di Sesto Fiorentino, che in realtà è un'area abbastanza ampia perché riguarda anche una parte di Firenze. Vi leggo al volo i dati. L'eletto per il sistema maggioritario è Giachetti Roberto del PD. Comunque, appunto, il centro-sinistra ha fatto il 35% in questa, insomma, in quest'area. Giachetti che prima vuole fare il sindaco di Roma, poi si candida a Firenze, lui di dov'è? Di Milano, forse. Sì, l'importante è il territorio. Esatto. Proprio radicato nel territorio. E, appunto, quindi il Partito Democratico il 35%. Poi abbiamo, allora, il centro-destra, la Lega ha preso il 13%, forse nettamente davanti a Forza Italia, che ha preso il 7,5%, e Fratelli d'Italia il 3,5%. Complessivamente il centrodestra ha fatto il 25% in questa area qui, mentre ha fatto, posizionandosi infatti davanti al 5 Stelle, che ha preso il 23% delle preferenze. Liberi Uguali segue col 6,5%. Arriviamo quindi adesso a potere al popolo, che ha preso 3.800 preferenze, equivalenti al 2,5%, e comunque, ecco, non ha superato il 3% qui a... Però è un punto in più comunque della media, esatto, nazionale, quindi vuol dire che, cioè, a Firenze potere al popolo è più forte che della media nazionale. Esatto. E per un rimaniamo su questo collegio, che ho trovato dei dati specifici. Gli elettori chiamati al voto erano 202.000. I votanti sono stati, di questi, 162.000. Affluenza quindi abbastanza alta. Sì, più o meno in linea con l'affluenza nazionale circa. Con 1.466 schede bianche e non valide ben 3.421 schede bianche. Poi vai a capire come sono invalidate, se qualcuno ci ha disegnato un bel pisello sopra o se semplicemente ha barrato due partiti diversi convinto di poter votare, non so, sia 5 Stelle che Lega, come suggeriva qualche meme su Facebook la settimana scorsa, non si sa. E così è. Invece, appunto, aiuto. Il Corriere dedica un articolo tutto rapido che scorriamo sulle dimissioni di Renzi, perché ci girano queste voci, il portavoce sta smentendo, sono notizie di pochi minuti fa in realtà. L'impressione è che se non si dimetterà lui comunque lo caccerà qualcuno. Esatto, probabilmente, appunto, la parabola del rottamatore, insomma, sta finendo evidentemente. E appunto sta commentando questo articolo, commenta questo insuccesso che porta il PD sotto il 20%. Poi appunto ricorda che c'è il successo a Firenze, dove appunto Matteo Renzi, che è candidato al Senato, ottiene infatti un seggio proprio per la circoscrizione di Firenze, incassa ben 100.000 voti, è la prima volta che diventa parlamentare e appunto ottiene per questa circoscrizione, che invece comprende Firenze città, Lastra, Signa, Signa, Scandicce e Impruneta, ottiene il 44% dei voti davanti alla Lega, che ne ottiene il 24% dei voti, attenzione, superando appunto il 5 Stelle che non raggiunge il 20. Madonna, speriamo che non torni a fare il sindaco a Firenze. Tenetevelo a Roma, sì, non si vuole. Abbiamo abbastanza. E bene, andiamo quindi con e un altro dato che forse possiamo commentare è la percentuale che ha preso Casa Pound, che anche lì c'è, cioè, almeno da parte mia, da parte di alcune persone con cui mi ero potuto confrontare negli scorsi giorni, c'era questo pericolo, cioè questo, cioè, comunque questa paura della possibilità che i fasci potessero entrare in Parlamento. Come si è dimostrato, alla fine tutto lo spazio concesso a Casa Pound, soprattutto, e in misura minore anche a Forza Nuova, cioè, è veramente stato semplicemente sfruttato da tutta Salvini, una parte del sistema, sì, da Salvini, ma forse anche da una parte della sinistra, in chiave antifascismo elettorale, roba così, perché cioè non, i risultati non gli hanno dato per niente ragione, e i fasci si sono rifugiati nell'unica cosa che sanno fare bene, ovvero piagnucolare. Sì, stamattina c'era un divertentissimo video di Stefano che si lamenta in collegamento appunto televisivo con Mentana, che praticamente sostanzialmente si lamenta del fatto che non ha avuto lo stesso spazio di altri all'interno dei programmi di La 7, e Mentana, cioè, lo sfotte a tratti, insomma è abbastanza divertente. Andatevelo a vedere, dai, cioè, nonostante Mentana ci stia un po' sul cazzo, però ogni tanto riesce a tirare fuori delle situazioni abbastanza divertenti. Sì, sì, cioè, quel pischellino rampante di Stefano che appunto piagnucola la sua delusione. Ho trovato invece, appunto, molto velocemente, sempre riguardo Potere al Popolo, nella circoscrizione di Firenze, quartiere Vecchio Nuovo Liperetola, che non so bene come si possa definire oltre che così, Potere al Popolo ha preso il 3,24%, invece qui vediamo che appunto ha superato quello che sarebbe appunto lo sbarramento, mentre Casa Pound, che candidava Saverio Di Giulio, ha preso lo 0,7%. Sì, quindi anche nelle periferie comunque della città, appunto Novoli, Peresola, che è tutta quella parte di Firenze Nord dove i fasci si pensa che siano molto forti, però evidentemente è solo una forza che appare magari dall'assenza di un movimento che li si opponga, dall'assenza degli antifascisti, perché poi è un'affluenza che non, in chiave elettorale non si vede, non si dispone. Esatto. E se vogliamo partire un po' di fantapolitica, cioè, come pensiamo che questa situazione possa influenzare l'azione dei movimenti italiani, comunque delle persone come noi che stanno fuori dalla politica istituzionale però combattono comunque per un cambiamento? Beh, io personalmente penso che appunto, cioè, il centro-sinistra come chiave di governo sia molto garante di stabilità, perché a livello di soprattutto di movimenti di massa è un freno evidente a tanta mobilitazione, per cui, cioè, da un certo punto di vista, in questi termini qui, è anche auspicabile, è stata auspicabile appunto una sconfitta del centro-sinistra. Poi ecco, rispetto agli spazi di agibilità e alle possibilità effettive, un governo ancora più reazionario da una parte potrebbe essere qualcosa di veramente problematico, perché comunque abbiamo visto, cioè, la sicurezza prendere parte nel dibattito politico e nella vita quotidiana di molte città italiane, praticamente tutte, per cui un peggioramento ulteriore potrebbe essere una cosa davvero grave per certi aspetti. anche se appunto il centro-sinistra, come da tradizione, ha fatto in realtà le leggi peggiori per ora rispetto a questo tema qua. Ma... una grande incognita in realtà è appunto il 5 Stelle, perché 5 Stelle al governo potrebbe perdere molto elettorato, potrebbe avere una frammentazione fra quella componente più di destra e quella più di sinistra, anche se è sempre più residuo a quanto pare, potrebbe non avere un reale sostegno di chi poi le ha votate, e quindi trovare subito anche persone pronte a contestarle. Come potrebbe non essere così, potremmo trovarci di fronte a delle contestazioni, potremmo trovarci un elettorato 5 Stelle che di base si sa, è noto, cioè è anche quell'elettorato incazzato, magari pronti a difendere, non lo so, questa è una grande incognita, e probabilmente è semplicemente una cosa molto articolata a livello politico, non è sicuramente un blocco monolitico il 5 Stelle. Ma sarà possibile avere un ministro dell'interno peggiore di Marco Minniti, secondo te? Basta non mettere Salvini, cioè anche... arriva davvero con le ruspe. Però non so, perché anche quando c'era Maroni, capito, uno pensava, ma peggio di Maroni, cosa ci potrà mai essere? Invece ci hanno dimostrato che il PD è riuscito a trovarne uno molto peggio di Maroni. Quindi esatto. Cioè, non c'è mai un limite al peggio. Sì, io condivido abbastanza il tuo discorso. Bisogna anche dire che sicuramente queste elezioni, da una parte, segnano il fatto che c'è uno spazio di agibilità per i movimenti, perché se il voto di protesta si esprime a livello così alto contro, per partiti che comunque vanno contro quello che è stato il modo di governare finora, significa che c'è uno spazio in cui puoi intervenire. Non c'è sicuramente soddisfazione per come si sta configurando il sistema attuale. Dall'altro bisogna anche dire che questa discrepanza tra mobilitazioni effettive e percentuali di voto di protesta così alto lasciano un po' l'amaro in bocca, perché ti fanno capire che evidentemente tutti i movimenti sociali non si sono mossi così bene come avrebbero potuto, e non sono di fatto riusciti a intercettare tutto questo malcontento che si è espresso semplicemente attraverso la cabina elettorale e non si è espresso nelle lotte o nelle piazze. Esatto. Intanto abbiamo appunto dati più completi riguardo ai seggi assegnati e sulle circoscrizioni, tendenzialmente rispecchiano quello che vedevamo prima, con qualche recupero del centrodestra nel sud Italia, tipo ad Agropoli, Vibo Valentia e parte della Catanzaro, parte della Calabria. Passiamo a qualche altro editoriale. Vogliamo leggere qualche altra notizia? Leggiamo. Siamo quasi in chiusura. Leggiamo l'editoriale di InfoOut, magari, che è uscito da poco. Esatto. Leggete, leggo io. Ma è uguale, posso leggere anch'io. Miglioreremo in regia, ve lo promettiamo. Sì, abbiamo tanti margini. Allora, editoriale di InfoOut che è uscito stamattina, sempre molto rapidi nello scrivere, forse se le scrivono prima, ma non lo so. Si chiama Vuoto di protesta, scusate, che è un palese gioco di parola, non si sa quanto ben riuscita. Si sono chiuse le urne, i non vincitori si litigano l'ipotesi di vittoria. Ci sono degli sconfitti. È chi si era cucito addosso una legge elettorale per imporre il numero chiuso al partito della governabilità. Sono centrodestra e centrosinistra, ma non dovevamo vederci più? Quelli delle larghe intese per la convenzio ad escludendum nei confronti del Movimento 5 Stelle. Ci sono degli sconfitti, non ci sarà nessuno inciucio, neanche sostenendosi a vicenda si tengono in piedi gli zombies della responsabilità per tutti, a ogni costo, pur di non mollare il malloppo. E che il ribaltone nel PD porti un'apertura di Renzi a 5 Stelle sembra quasi impossibile. Il ritorno del bipolarismo comunque non si è visto. Il centrodestra resta al palo, il centrosinistra sprofonda. Il PD corona il suo sogno europeista. Renzi porta le spoglie della social democrazia sugli standard continentali di PSOE, PS, SPD, PASOK. Missione compiuta. E quanti trombati. Tra i più simpatici, Minniti, Franceschini, Esposito. Il crollo del PD si accompagna alla crisi di credibilità di qualsiasi opzione antisistema nell'attuale quadro politico. Che esploit di Leu, D'Alema al 3% a Nardò e Grasso Caput a Palermo. Lunari. Anche quei cattivoni dei fascisti di ogni ordine e grado, usi l'idiosi del berlusconismo di ritorno e, fino a un certo punto, del tentato qua c'è una parola che non si capisce bene cosa significa, antifa-washing democratico, magari sono ignorante io. Antifa-washing, scusate, questi neologismi non mi trovano preparato. Hanno chiuso questa campagna elettorale nella cornice di una completa normalizzazione fatta di vittimismo e distintivo. Aspettiamo le prime grandi navi di Casa Pound in Libia. Forza Italia tracolla, per ragioni anagrafiche, tanto del leader che dell'elettorato. Non è tempo di moderati? Non è tempo di barzellette. La Lega sfonda, sì, ma sulla balcanizzazione del paese, altro che Lega Nazionale. Gli analisti, tutti sudati, dicono che Salvini più 5 Stelle fanno più del 50% come segno dell'antipolitica. In realtà c'è scollamento tra una proposta di governabilità e un assenso dato contro il PD. Un plebiscito contro l'establishment. L'aria resta asfissiante, ma in barba a ogni dogmatismo e molto più pragmaticamente, ognuno conduce la battaglia con ciò che ha a disposizione. L'affluenza è alta, sebbene comunque in calo. Non esiste il partito dell'astensione. Un'espressione utile agli spiriti in cerca di consolazione. Ci sono degli sconfitti, insomma, ma non dei non vincitori. Di Maio busserà al Quirinale. Sono il primo partito, ma non avranno una maggioranza. Garanzie, però, ne hanno fornite a sufficienza. Più alla corte che al proprio elettorato. Il movimento si è fatto partito. Per la stabilità hanno competenze i pentastellati. Sono qualificati. Hanno referenze nella società civile, altro che populisti. Sono istituzionalmente credibili. Sarebbero gli unici in grado di rinnovare il personale politico di Montecitorio, incapaci di rigenerarsi altrimenti, e di tenere tutto quanto nel perimetro del palazzo. È noto come la toilette nelle stanze di Versailles abbondasse in profumi e difettasse in sapone. Ma qui non si sa quale regno tramonti. Quindi, editoriale che mette molto il segno su l'avvenuta sostituzione di una classe politica, nel senso bisognerà vedere se meglio o peggio della precedenza, ma comunque niente che si pone in netta rottura con quella che la precedeva, semplicemente è stata come era accaduto anche a inizio anni 90, dove alla classe politica della prima repubblica si era sostituita quella della seconda. È forse quello che sta avvenendo effettivamente ora. La classe politica della seconda si sta sostituendo la classe politica della terza. Tutto ciò comunque ha portato, come anche abbiamo visto in altri paesi, tipo mi viene l'esempio della Grecia, dove comunque la schiacciante vittoria di Syriza non ha portato a nessun cambiamento effettivo, se non appunto alla sostituzione della classe dirigente. Oppure anche ora in Europa effettivamente non ci sono così tanti esempi. Forse i paesi dell'America Latina sono più nuovi a questo genere di cose. Viene l'esempio del Brasile di Lula, che anche quella sembrava che dovesse portare a un grande cambiamento, però poi in realtà non questo cambiamento sperato non è arrivato. Sì, effettivamente l'America di Trump, che è una cosa un po' diversa, perché lì si elegge il presidente, non è che si elegge tutti i rappresentanti, però anche lì cioè sostanzialmente gli esempi che possiamo portare da altri paesi ci hanno dimostrato che attraverso le urne, ok, si ha effettivamente un cambiamento della situazione, però è semplicemente un cambiamento di segno, non è un cambiamento radicale. E ovviamente il modo in cui ti comporterai è diverso, non è oggettivamente la stessa cosa, non ci sembra di poterlo dire che vinca uno o che vinca quell'altro. Ci sono effettivamente delle differenze. Ci sono differenze che noi ovviamente in nessun modo possiamo salutare come soluzioni. Semplicemente avremo bisogno di comportarci in un modo diverso. Ok, direi che siamo in chiusura. Lanciamo proprio buttati lì, appunto, gli ultimi aggiornamenti sono quasi definitivi, i seggi assegnati per il sistema maggioritario che vanno sostanzialmente quasi nessuno, una piccolissima minoranza al centro-sinistra, la grossa parte al centro-destra, segue il 5 Stelle. Quindi appunto anche rispetto poi a quello che sarà invece la parte proporzionale del... di questo sistema elettorale molto strano e astruso, è evidente che appunto nonostante il 5 Stelle sia il primo partito, la coalizione più forte rimane comunque il centrodestra. Infatti in questo momento Repubblica Online titola che Renzi ha deciso di dimettersi, parlerà alle 17, e Di Maio che dice noi siamo i vincitori assoluti e siamo pronti a confrontarci con tutto, con tutti, con tutte le forze politiche. Salvini che dice non voglio coalizioni strane, ho il diritto e il dovere di governare con il centrodestra. Per cui questi almeno sono i toni di oggi, vediamo quanto si manterranno tali, ma tanto in realtà abbiamo molta fiducia nel fatto che gli inciuci ci saranno e saranno tutti a scapito nostro. Ok, direi che siamo in chiusura. Da settimana prossima torneremo a parlare di cose, si spera, un po' più interessanti. Sì. Per oggi abbiamo chiudiamo con questo speciale elezioni, che comunque ci sembrava doveroso, perché sono comunque una cosa che vanno a influenzare il tuo modo di agire nella politica. Esatto, ci sentiamo lunedì prossimo con sempre appunto con la rassegna stampa. E ricordo al volo appunto che ci potete ascoltare da questo, dall'ultimo fine settimana, quindi da ieri all'altro, ci potete ascoltare anche in onde medie alla frequenza 1359 e ovviamente appunto su internet in streaming o in podcast anche, esatto, wombat.noblogs.org. Ci trovate anche su Twitter, Facebook, e invece per scriverci la mail postawombat@insiberia.net. Vi lasciamo quindi con l'ultimo pezzo e tanti saluti. Engine stop on him, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stuck on him, the wheat is going thin, a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning. Down there.